la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo martedì 8 di aprile alle 16.36, 6 secondi qui in diretta di Studio Radio 24, grazie che ci ascolta, grazie che ci scarica in podcast. Sapete sicuramente che alle 18 c'è il Consiglio dei Ministri per l'esame e l'approvazione del Piano Nazionale di Riforme e del Documento di Economia Finanziaria, quindi in tardo pomeriggio sapremo finalmente qualche numero concreto. Già girano anticipazioni, però è il testo precedente ancora al Consiglio dei Ministri. Quello che intanto si è saputo è che il governo si prende un altro anno, dal 2015 al 2016, per l'azzeramento del deficit, e intanto il Fondo Monetario ci dice che nel 2015 e 2014 la crescita stimata dal Fondo per la Grecia rispetto all'Italia, la Grecia avrà una crescita superiore a quella italiana. Quindi vediamo un po' quale sarà la quantificazione poi della crescita aggiuntiva stimata dalle riforme che il governo intende presentare in Europa, Consiglio Nazionale delle Riforme. L'altra novità di giornata è che la minoranza del PD ha ufficialmente aperto la caccia a Renzi, perché al Senato senatori come Mineo e Chiti hanno formalizzato il fatto che non si adegueranno al testo di riforma del Senato presentato è sostenuto dal governo. Sapete che Forza Italia su questo ha fatto un ultimatum, ha detto ve lo votate voi se non ci date la riforma elettorale entro Pasqua, e invece diverse decine di senatori del PD, senza i quali quindi non c'è maggioranza in Senato per Renzi, hanno detto preferiamo concordare un testo diverso con senatori elettivi insieme al Movimento 5 Stelle, quindi insomma la giornata è agitata. Detto questo, prima di attendere i dati del DEF, oggi ci occupiamo di una cosa che dopo che per 11 mesi ci ha bombardato tutti i giorni, cioè la tassazione immobiliare, da che la riforma dell'IMU, sapete, è stata la croce del governo Letta, oggi è un po' uscita dall'attenzione, ed è uscita dall'attenzione secondo me colpevolmente. Io chiedo a voi di telefonare all'800 24 00 24 per farci capire se avete davvero capito quanto pagate quest'anno tra la TASI, la TARI e la TARES, le tre diverse componenti, quella che gravano sugli immobili prima e seconda casa, e naturalmente se siete poi piccoli imprenditori, artigiani e commercianti, anche se avete capito quanto pagate di più o di meno sull'immobile strumentale della vostra impresa. Ma da quello che informazione specialistica, perché stiamo parlando di temi dannatamente tecnici, viste le complicazioni che sono intervenute con questa imposta che mette insieme tre cose che non dovrebbero stare insieme, e con le addizionali locali, sembra purtroppo profilarsi un quadro esattamente opposto a quello che ci avevano raccontato. Ricordate che la somma delle diverse componenti, cioè la TASI, il coefficiente patrimoniale sull'IMU non prima casa, o meglio su solo quelle parti di prima casa che erano rimaste sottoposte a tassazione, e poi seconda casa più la componente dei servizi divisibili e indivisibili, non doveva sommata superare la tassazione precedente. Pare proprio che invece non sia così. Vi richiamo solo le ultime tabelle e articoli fatti in questi ultimi 2-3 giorni da Sole 24 Ore, con tanto di simulazione pubblicate. Sul numero di domenica su Sole 24 Ore trovate le diverse simulazioni per classi di piccola impresa, per il quale la TASI sulle imprese ha possibili aumenti del 20%, e ci sono le simulazioni e si spiega il perché. In più, secondo fatto, poiché è stato dato ai comuni la protrazione del tetto entro il quale approvare il bilancio 2014 al 31 di luglio, questa pessima abitudine contabile per il quale lo Stato, siccome c'è un tavolo sempre aperto tra i trasferimenti tra centro e periferia, dice ai comuni slittate oltre. Ricordate che il record è stato quello dell'anno scorso, quando siamo arrivati a fine novembre per approvare i bilanci dell'anno in corso, anche allora per la ragione della tassazione immobiliare da decidere. E poiché però ai comuni è stato dato il 31 luglio di quest'anno, che cosa succede? Succede che a questo punto i comuni non hanno l'incentivo a fissare prima della vostra prima rata da pagare sulla tassa immobiliare, che sarà a giugno, le aliquote e le detrazioni, e a quel punto quanto dovrete pagare nella data di giugno sarà ai massimi di legge, cioè il 2,5 per mille. Poi si vede a conguaglio, perché solo dopo si capirà se davvero i comuni avranno utilizzato la sovraaliquota dello 0,8 per mille concessa a fine anno e confermata da questo governo, in teoria concessa ai comuni per però restituirvela la condetrazioni che ogni comune deve giudicare oppure no, perché la terza novità è che poi nella versione finale del decreto Salva Roma non è più tassativo utilizzare quella sovraaliquota per la detrazione e quindi in molti casi i comuni la utilizzeranno in realtà per fare cassa. Di fronte a tutte queste novità, il bilancio che si profila ragionevolmente e che in tutte le diverse componenti e in questa articolazione caotica di aliquote e sovraaliquote in realtà si finirà per pagare parecchio di più e in moltissimi casi parecchio di più. Anche a Milano, dove già le aliquote sono state fissate, è così, e c'è una polemica, per esempio, al Comune di Milano tra maggioranza e opposizione, perché anche sulla prima casa si torna a pagare parecchio a Milano, tranne detrazioni molto più limitate che in passato. Per capire meglio, abbiamo qua invitato il segretario generale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, secondo i dati e le interpretazioni che avete voi dei test in vigore, dei tempi e così via, che impressione avete tra le diverse componenti dell'imposizione immobiliare? Distinguiamo famiglie e poi andiamo alle imprese. Ma che impressione avete? L'impressione è quella molto negativa che lei ha descritto in maniera veramente perfetta e che si compone, diciamo, di vari elementi. Non ultimo, e comincio da questo, quello del rispetto anche dei contribuenti, a prescindere dall'entità del prelievo, cioè questo malcostume di continuamente spostare in avanti il termine per l'approvazione dei bilanci per i comuni e quindi di deliberazione delle aliquote, è una cosa veramente di cui non si comprende la gravità per le persone normali che devono anche minimamente fare un piccolo bilancio della propria famiglia e quindi sapere quanto devono pagare. Ha ricordato il precedente dell'anno scorso, si è arrivati addirittura a novembre, quindi questo, diciamo, è un punto che non riguarda l'entità della tassazione, ma è una questione che fa capire il livello di civiltà giuridica di questo paese. Dopodiché, io ricordo che proprio per evitare il ripetersi dell'anno scorso, il governo Letta stabilì che quest'anno, rispetto alle 6 diverse rate che sarebbero state altrimenti possibili per pagare la somma delle diverse componenti dell'imposta sugli immobili, aveva fissato appunto queste due uniche scadenze, quella del 16 giugno, che sarà quella dell'anticipo, e quella del 16 dicembre. Il problema è che noi arriviamo al 16 giugno in una situazione di incertezza fortissima, per la ragione per la quale ai comuni è stato scavallato il termine invece per decidere, perché se io non devo presentare il bilancio perché posso presentarlo un mese e mezzo dopo, è ovvio che io mi farò tutti i conti fino all'ultimo secondo di che cosa utilizzare delle mie sovraddizionali, come se utilizzarle per le detrazioni, oltretutto avendo il governo concesso all'ultimo secondo, sorprendendo tutti, che non è affatto obbligatorio utilizzare la sovraaliquota per la detrazione, corretto? Certo, correttissimo. E tutto questo poi, visto dalla parte del comune o dello Stato, ha un senso, e visto dalla parte del contribuente, insomma, ha quel senso che dicevo prima. In tutto ciò si è verificata quest'altra cosa che lei accennava prima, è stato incredibilmente, io direi, respinto un emendamento del Presidente della Commissione Finanze della Camera, non deputato qualsiasi, onorevole Capezzone, che chiedeva di applicare, cioè di mettere dei paletti rigorosi ad un principio che lo stesso decreto, questo qui enti locali, che è all'esame della Camera, prevedeva, che era quello della corrispondenza fra l'aumento dell'aliquota concessa ai comuni fino allo 0,8 per mille e l'utilizzo di quell'aumento per finanziare le detrazioni. Il principio, devo dire, è rimasto, ma non è stata inserita, speriamo che la Camera, che comincerà ad occuparsene un po' meglio in aula oggi, ripari a questo, non è stato inserito quel controllo attraverso una prova che veniva richiesta, una certificazione eccetera, quel controllo che poteva essere attuato anche dai cittadini. Si chiedeva per esempio di inserire addirittura su internet una certificazione che dimostrasse questa corrispondenza. Quindi ciò che rimane, appunto, la realtà è l'unica cosa certa, è questa facoltà di aumento allo 0,8 per mille, che colpisce, sì, come lei ha detto benissimo, le imprese, colpisce però anche tutti, bisogna sempre ricordarlo, gli immobili diversi dall'abitazione principale, quindi negozi, uffici, immobili anche abitativi dati in affitto, immobili che non si riescono ad affittare, che sono sempre di più, case ma anche negozi, uffici, c'è uno sfitto enorme nelle nostre città e anche nei piccoli centri. Colpisce quindi i comuni, il caso di Milano è sintomatico, ma anche Roma va in quella direzione, si stanno così indirizzando per l'utilizzo di questa di questo aumento loro concesso quasi, anzi integralmente, per questi immobili diversi dalla prima casa. Quindi il risultato è quello evidente di un aumento della tassazione rispetto peraltro a quanto aveva stabilito la stessa legge di stabilità, che aveva detto perlomeno non aumentiamo, fissiamo un limite identico a quello tra IMU e TASI, identico a quello dell'IMU vigente, insomma, fino all'anno precedente. Questo è il quadro, purtroppo. Purtroppo è questo. Io ricordo che per negozi e piccole imprese, per queste categorie, a seconda di quale fosse il parametro a cui, se ci ascoltate, appunto avete imprese, piccole imprese di questo tipo, se eravate al 7,6 per mille dell'IMU e quindi 8,6 per mille di IMU e rifiuti, con quello che si chiama il parametro standard, comunque il vostro aumento è del 13,2%. Se eravate l'aliquota massima, il vostro aumento è di un ulteriore 7,5%, perché arrivate all'11,4 per mille. Questa è la spiegazione, che cambia ovviamente a seconda del tipo di situazione, che spiega i possibili aumenti della TASI sulle imprese. Siamo in ritardo per l'informazione stradale, poi ripartiamo con telefonate degli ascoltatori. Intanto siamo con il segretario generale di Confedilizia, tra poco. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta a 16:48, 59 secondi. Avrete capito che da un accenno che ha fatto il segretario generale di Confedilizia Giorgio Spazzini Testa, che vale la pena di continuare a parlarne, non solo per capire che cosa avete capito, ma perché c'è un testo, un decreto legge che tra Camera e poi la successiva esame del Senato, questo appunto enti locali, diciamo verrà approvato poi anche dal Senato non prima di che sia passato le festività pasquali, che è un po' l'ultimo treno, perché il governo e il legislatore capiscano che dopo 11 mesi oramai, quasi 12 anzi oramai, di ballo, 12 mesi dall'aprile dell'anno scorso sulla tassazione immobiliare, bisogna ancora mettere un freno e chiarezza, perché si è fatto solo troppo caos aggiuntivo e soprattutto ciò che bisogna pagare è cresciuto. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Eros, che ci chiama da Bologna. Prego, Eros. Buonasera, dottor Giannino, grazie Oscar. Grazie per la possibilità di intervenire e complimenti per la trasmissione. Io sono un, come dire, un ascoltatore nei limiti del possibile della sua trasmissione e anche un lettore del sulle 24 ore. Sì. E volevo dire che quelle preoccupazioni che lei, rappresentante di Confedilizia, avete ben rappresentato sono più che reali, nel senso che innanzitutto, diciamo così, questo aumento dello 0,8 che doveva essere eventuale, pare di capire che sia eventuale di nome, ma di fatto venga applicato sistematicamente. Io, ad esempio, sono di Bologna, non se ne parla neanche, è già il 3,3%, 2,5 non esiste neanche. 3,3 per mille, sì, ha ragione. Inoltre nessuno dice che questo presunto tetto vale soltanto per il 2014, dal 2015 mani libere per tornare fino a 6 per mille e non ci sono più nemmeno le tanto vituperate detrazioni che almeno erano per tutti fissate su base statale. A me piacerebbe capire come mai ci sono contribuenti che sono di serie Z, perché stanno in delle zone che vengono considerate privilegiate come questa, dove la tassazione è sempre ai massimi, e altre dove invece la tassazione è ben più moderata. Voglio dire, è molto strano sentirsi... No, perché da una parte la concorrenza ordinamentale tra diverse aliquote all'interno dell'ordinamento secondo me è positiva. Quando diventa invece la gara dello Stato che dice io vi taglio il trasferimento, ma vi lascio le sovraliquote, andate al massimo così l'impopolarità è vostra, questo non è federalismo fiscale, questa è una finanza pubblica scassata, perché tra centro e periferia si fa lo scaricabarile a chi picchia in testa, quindi questo non è concorrenza ordinamentale, che quella è positiva come c'è in Svizzera. Grazie Eros, sentiamo invece quello che pensa, o se ha capito meglio cosa paga di più o di meno, Cristian, che ci chiama da Brescia. Prego Cristian. Sì, buonasera a tutti, salve Oscar. No, beh, in realtà sono tra virgolette terrorizzato, nel senso che io ho due case, una prima casa e una seconda casa, che fortunatamente è affittata, per cui prendo anche l'affitto per fortuna. Io sto guardando, sto ragionando su un discorso che grazie a tutti questi giochetti, IMU, non IMU, TUC, Tic Tac e così via, io pagherò sicuramente di più su entrambe le case, ma le case, grazie a questi giochini dei vari governi, stanno perdendo valore in maniera allucinante. Ecco, hanno perso tra il 20 e il 25% di valore in 2-3 anni, uh-uh. È andato a picco. Adesso le case le tengo perché comunque una ci vivo, l'altra affittata, non ho intenzione di venderle, però dovesse aver necessità di venderle, prima non riuscirei a venderle, tra virgolette, perché nessuno se le piglia con questo mercato e con questo terrorismo che stanno facendo, e secondo le dovrei vendere a un 20-25%. Io su tutte e due ho pagato mutui, sulla seconda casa che era la mia ex prima casa ho pagato un mutuo per 15 anni, sulla mia prima casa attuale sto pagando un mutuo trentennale, tra virgolette, non è che me l'ha regalato il Padre Eterno le case e certo, visitate. E certo. Per cui, ecco, quindi grazie a tutti questi giochi dei governi e grazie all'euro che ci sta rovinando, stiamo andando alla deriva completa. E in più chi se ne fa le spese ancora di più sono i costruttori che stanno fallendo tutti. Ah, questo ne abbiamo parlato innumerevoli volte, del settore delle costruzioni, ricordo a tutti, seconda casa, aliquota massima 11,4 per mille, grazie anche a Cristian. Allora, torniamo con Giorgio Spaziani Testa, segretario generale di Confedilizia. Innanzitutto, dal vostro osservatorio c'è qualche segnale di ripresa rispetto all'andamento negativo degli ultimi due anni dei valori immobiliari, cioè si è fermata la discesa oppure no? Purtroppo no, e l'ascoltatore metteva giustamente in evidenza l'altro aspetto fondamentale di tutta questa vicenda, cioè che gli effetti depressivi della tassazione sono evidenti, stanno diminuendo non solo, stanno diminuendo da un lato il numero di compravendite, a partire dal 2012 è un calo costante, noi abbiamo segnalato qualche giorno fa che qualcuno si lascia così fuorviare un po' dalle ridotte percentuali di diminuzione nel confronto fra il 2013 e il 2012, dimenticando che il confronto col 2012 è il confronto con un anno di tracollo delle perché dove eravamo passati nel primo semestre a 400.000 compravendite rispetto a una media che era quasi 800.000 nel pre-crisi. Siamo in una situazione veramente di continuo calo, e altrettanto ovviamente il discorso per i valori, un discorso sui valori che tra l'altro si manifesta e non si manifesta, nel senso che il blocco che si ha del mercato è tale spesse volte da non far emergere addirittura il calo di valori, perché appunto si blocca il mercato e, non dimentichiamolo, si blocca poi tutta l'economia collegata, quindi la situazione è davvero critica e non contribuisce, anzi contribuisce a migliorarla e contribuisce invece a peggiorarla questa situazione, da un lato di aumento della tassazione, e qui noi abbiamo commentato quell'aumento dello 0,8 per mille sperando che fosse l'ultimo atto del governo precedente, esatto, diciamo, perché era un accordo, e dall'altro però anche le complicazioni che lei ricordava. Che va bene, allora io ringrazio Giorgio Spaziani Testa, torneremo su questa faccenda, vedremo se il decreto legge interverrà, intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.